Che bello, ciao, da quanto tempo non ci vediamo, che belli che siete. Chi ha ancora un po' di abbronzatura? Posso vedere le mani di chi è ancora abbronzato? Che bello. Vi do un segreto per l'abbronzatura perfetta. Protezione 50+. Se tu indossi la protezione, ti metti tutta l'estate la protezione 50+, ad ottobre sarai ancora abbronzato. Chi di voi vuole ancora fare dei bagni prima che... Chi di voi ha già tolto di mezzo le sedioline e l'ombrellone? Male, uscite da questa sala perché siete le persone che hanno poca fede. Io voglio fare ancora dei bagni, voglio indossare ancora il costume, voglio sporcarmi di sabbia. Che bello essere sporchi di sabbia, vero? No, io odio essere sporca di sabbia. Però la salsedine, i capelli che fanno schifo, tutti... è bella l'estate, vero? Teniamocela ancora un po'. Amen. Signore, dacci un altro po' d'estate. Un'estate da 28 gradi, amen, fino a novembre, va bene? Quanti con me in questa preghiera? Amen, amen. Qualcuno ha detto è finita l'estate, io non l'ho ancora capita. No, io la voglio ancora capire, quindi abbiamo ancora settembre. Chiesa, benvenuti, siamo di nuovo finalmente tornati ai due incontri, si vede un po', devo dire, ma... dobbiamo rialzare il mood dell'incontro di mattina, perché non è vero che la mattina vengono persone che stanno ancora dormendo alla grande, non è vero che la mattina vengono le persone che poi la sera vogliono, non lo so, che non vengono la sera, non è vero che la mattina vengono le persone che poi devono correre per andare a preparare il sugo. Fate come me, fatevi invitare la domenica a pranzo, così non dovete cucinare. La domenica mattina è bellissima e da oggi riprendono i due incontri, per cui se il messaggio non vi piace questa mattina, vi assicuro che stasera sarà la grande, perché predica Noemi, ok? Quindi io vi dico, venite anche stasera, anzi se volete ora potete alzarvi, ciao, ma questa c'è, no, vengo stasera che c'è Noemi, io ve lo suggerisco. Però mi dispiace, oggi predico su Filippesi ed è in realtà la mia prima volta che predico su questo libro, perché Luciana non mi vuole più mettere la predicazione. No, non è vero, Luciana e il pastore ci hanno messo la predicazione, mi hanno messo la predicazione più volte, ma purtroppo per motivi miei, quindi chiedo perdono pubblicamente di non essere stata presente in tante domeniche, è la prima volta che predico su Filippesi e vi assicuro che non era per niente questo il verso su cui volevo predicare. Quindi facciamo la premessa, così poi siamo tutti quanti dentro. Mi concedete 5 minuti di premessa? Il verso su cui siamo, a cui siamo arrivati, perché stiamo riprendendo la predicazione su Filippesi dopo circa 2 mesi di stop, di interruzione, no? I campeggi, poi agosto da Dio, abbiamo avuto gli ospiti, avremo ancora un ospite speciale a settembre e ci siamo lasciati con la fine del capitolo 2. E quindi oggi riprendiamo dal capitolo 3. Che è un capitolo bellissimo, è il libro di Filippesi, come sappiamo, ci sta facendo inoltrare in concetti straordinari. A Gesù che si umiliò, e dell'essere umili come Cristo, sacrificarci per gli altri, il servire Dio, il servire insieme alle persone, no? Ci ricordiamo la predica del pastore su Timoteo ed Epafrodito. E poi c'è questa tematica ridondante, che ti esaurisce a un certo punto, che è la tematica della gioia. Infatti questo è anche chiamato il libro della gioia, perché solo in questo libro leggeremo, in tutto il libro, già sono state predicate più volte, è già stata predicata più volte questa tematica, ma in tutto il libro gioia e i sinonimi di questa parola è presente almeno 20 volte solo in questo libro, 200 volte in tutta la Bibbia, 20 volte solo nel libro dei Filippesi. E questo messaggio che forse riesco a darvi oggi, se avessi dovuto predicarlo un anno fa, precisamente un anno fa, vi assicuro che vi avrei potuto parlare di questa tematica in un modo completamente differente, con una prospettiva forse più leggera, più schietta anche, ma a settembre 2023 questa tematica è diventata difficile. Perché? Vi spiego, già comincio a piangere, mi concedete 2 minuti di pianto, poi andiamo avanti? Grazie. A settembre 2022 ci siamo seduti, io e mio marito, come sempre noi abbiamo un momento per mettere punti, obiettivi, strategie, scelte, eccetera. A gennaio cominciamo l'anno, a settembre lo rivediamo e mettiamo dei nuovi punti per la nuova stagione. Quindi eravamo seduti io e mio marito a settembre dell'anno scorso e mio marito mi dice: beh, che ti sembra questa stagione? Io dico: amore, dopo 2 anni di essere diventati genitori, pandemia, trasloco, secondo me il peggio è passato. Ora è tutto più facile, lo vedo proprio come un anno, un inverno facile, tutto in discesa. Non sono mai stata meno profetica di così. Cioè, proprio, sembra che lo Spirito Santo se ne fosse andato da me in quel momento, perché questo era settembre, ad ottobre sulla nostra famiglia si è schiantato uno tsunami enorme, perché da prima, pochi di voi lo sanno, ho avuto un problema fisico molto grave che si è poi risolto in pochi mesi, e poi è arrivata la malattia di Elias, ed era il 25 ottobre dell'anno scorso, 26 ottobre dell'anno scorso. E questo tsunami è arrivato schiantandoci, perché poi l'abbiamo vissuto non solamente come credenti, come ministri, ma come zii di Elias, come fratelli e sorelle, cognati di Saverio ed Enza, come zii di Gioele, ma anche come genitori, perché è la malattia di un bimbo di 4 anni. E da genitore lo vivi in una maniera esponenziale. Per non finire, ad aprile si è ammalato mio suocero e abbiamo rischiato 2 volte con lui. Insomma, diciamo che sicuramente non è stato l'anno più facile della nostra vita. E in questo anno, in tutto l'inverno, ti dovevi svegliare ad un certo punto. Molte notti erano insonne. Molte notti si combatteva, molte notti si piangeva, molte notti si pregava, molte notti si messaggiava con Enza, da sola in ospedale, isolata, molte notti così, poi la mattina arrivava e ti dovevi svegliare, e dovevi svegliarti e dovevi incontrare Gesù. E molto spesso non l'ho incontrato perché lo volessi incontrare io, non avevo sempre il desiderio di incontrare Dio. È Dio che ha voluto incontrarmi ogni giorno e mi ha incontrato anche nella mia rabbia, nella mia delusione, nella mia tristezza, nelle mie lacrime, nei miei silenzi, nel mio non voler vedere in faccia nessuno, non volermi guardare neanche in faccia allo specchio. È Dio che mi ha incontrato. Ed è stato un processo. Ed è un processo che a gennaio l'ho intravisto, perché uno degli obiettivi di questo 2023 è stato, Dio mi ha dato questo slogan per me, un anno di gioia, Gesù però. E quindi questa gioia che non arriva, questa gioia che è difficile da conquistare, questa gioia che forse la devo capire meglio. E quindi oggi sono qui a parlarvi con una consapevolezza di questa gioia, forse leggermente più depressa, ma vi assicuro sicuramente più matura. E ringrazio Dio per questo anno. Perché come ci ha insegnato il pastore al campeggio, nella battaglia di Giosafat, devi adorare conquistando e guardando le battaglie e le vittorie già prima di raggiungerle. Questo non l'ho fatto, ho chiesto perdono a Dio durante, a volte non l'ho fatto, però sicuramente dopo, ora lo stiamo facendo. Siamo a 60 giorni di attecchimento del midollo, con un 100% di attecchimento del midollo del donatore su Elias, e questo è miracoloso. È una gioia che devo conquistare, una gioia che devo rivedere, una gioia che devo capire, perché io la gioia non l'ho capita. Allora vogliamo leggere insieme il verso, che è Filippesi 3:1, e dice: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivere le stesse cose, e l'abbiamo visto perché l'ha scritto 1 milione di volte, ma ciò è garanzia di sicurezza per voi. Lo leggiamo di nuovo. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Quindi il titolo di oggi, di questo messaggio, è mai una gioia, ok? Conoscete bene quest'hashtag, ormai si vendono dappertutto. gadget con mai una gioia, su TikTok ci sono foto, video, su Instagram con mai una gioia. Ma è particolare questo senso di ricerca della gioia, perché quando leggete online sui social mai una gioia è sempre associato a qualcosa che va male, qualcosa che non va come te l'aspetti, qualcosa che avresti voluto andasse diversamente, invece va in un modo che non ti piace. E questa è una giornata, stamattina e stasera, per ricordarci, vi prego, con me, che noi non possiamo vivere in una ricerca di una gioia che inizia e finisce. Noi non possiamo, perché allora la depressione, l'ansia, ogni tipo di disturbo clinico è dietro l'angolo. Noi non possiamo vivere con la spasmodica voglia di ricercare una gioia che dipende da qualcosa. Come sono andate le tue vacanze male perché ha piovuto, allora sono triste. È chiaro che tutte queste cose generano in noi dei sentimenti che sono leggeri, che sono passeggeri, che ovviamente possono influenzare molto più di quello che meritano. Ma Chiesa, per tutti coloro che conoscono Gesù, che lo conoscono, che lo hanno riconosciuto come personale salvatore, cioè se tu puoi dichiararti figlio di Dio, questo è un hashtag che tu non puoi usare. Anzi, se devi usarlo, devi usarlo come lo sto usando io. Mai una gioia, perché noi non siamo chiamati a una gioia del giorno, del momento, del pomeriggio, della stagione. Noi siamo chiamati alla gioia. Quindi per piacere scriviti dappertutto mai una gioia, perché io non voglio più ricercare una gioia. Quella gioia me la sarò dimenticata alla fine della giornata. Quella gioia quando andrò a dormire dura due giorni, ma quella è una gioia che io non posso ricercare più. Perché se ricerco quella gioia sono letteralmente nei guai. È troppo labile, è troppo leggera, è troppo... No, non ce la meritiamo questa gioia. E sai perché? E lo vedremo oggi, perché noi siamo creati per la gioia. Te lo voglio far vedere. Quindi gira questa modalità, hashtag mai una gioia, vi faccio vedere qualche foto. Dappertutto ci sono questi hashtag, eccetera, queste foto. Questo mi ha fatto troppo ridere, no? Ho fatto una ricerca con se cerchi una gioia sei nel posto sbagliato. Cioè, ragazzi, mi ha fatto troppo ridere, ma quella che mi ha fatto ridere di più è questa qua. Signore, donami una gioia, il Signore ti ha bloccato. Perché neanche più il Signore ce la fa più a sentirti di Signore, ti prego, dammi una gioia, il Signore ti ha bloccato. Ci pensate che Dio ci blocca? Certo, secondo me qualche volta con me l'ha fatto. Comunque, solamente perché si era stanca. No, non è vero, scherzo. Vediamo meglio il verso. Del resto, fratelli, rallegratevi nel Signore. E non mi stanco di scrivervi queste cose. Cominciamo da del resto, voglio andare proprio dentro, ok? Del resto. Il terzo capitolo Paolo lo comincia così. Quando troviamo del resto, dunque, è una forma riassuntiva per dire senza dimenticarci di tutto quello che è stato già detto prima, cioè considerando tutti i concetti già esposti, avendo presente tutti i concetti già esposti, che vi ricordo sono la grazia salvifica di Cristo, l'unità nella fede della Chiesa, la generosità dei filippesi nel donare a Paolo mentre era in carcere, l'umiltà di Cristo come segno di riconoscibilità per i credenti, figli e membri della stessa Chiesa. Tutti questi concetti, Paolo dice, non ve li dimenticate. Sulla linea di questi concetti lui continua. Del resto, questa è una lettera che ricordiamo è stata scritta ai Filippesi ed è una delle lettere più belle del Nuovo Testamento, per ringraziare la Chiesa di Filippi per il dono ricevuto mentre Paolo era in carcere, e questo dono di soldi monetario gli era stato consegnato da Epafrodito. Questo è il motivo principale per cui Paolo ha scritto questa lettera. E poi elenca tutte le qualità della Chiesa. È una Chiesa che fa gioire Paolo, è una Chiesa che fa veramente lo fa gioire. E quindi è diventato lo scrittore della gioia. E voi vi immaginate, no? Io mi sono chiesta quale altro autore ci poteva essere nella parola di Dio più adeguato, secondo i miei criteri, per scrivere una tematica legata alla gioia. Io mi immagino, no? Il Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo che stanno insieme, si incontrano e dicono: beh, noi, il nostro carattere è di gioia. Ora, a chi glielo facciamo scrivere un libro su 66 libri che voglio scrivere per parlare della gioia? E io penso che forse il Figlio o lo Spirito abbia detto: facciamolo scrivere a Salomone, quello ha avuto tante concubine, quindi tanta gioia. E poi ad un certo punto lo Spirito Santo dice: ma secondo me è meglio che parli alla Sapienza, quello che forse proprio perché ha avuto tante concubine non ha capito bene bene il fatto. E quindi ad un certo punto Padre, Figlio e Spirito dicono: ma perché non glielo facciamo scrivere a uno che ha sofferto tanto, che è perseguitato? E facciamo così: meglio che scriva un libro sulla gioia non mentre sta fondando tutte le chiese nel Mediterraneo e gli sta andando alla grande, facciamoglielo scrivere mentre è in carcere. E tutti si sono guardati e hanno detto: bella questa idea, un'idea da Dio, facciamolo. E così è nato il libro di Filippesi, che è stato scritto non da una persona in uno stato euforico, non da uno stato che noi potremmo definire di successo, uso specificatamente queste parole, ma mentre era in carcere. Questo è il nostro Dio upside down, questo è il nostro Dio sotto sopra. Già solo per come è stata scritta e per quando è stata scritta, da dove è stata scritta questa lettera, abbiamo bisogno di comprendere che l'idea della gioia che Dio ha è molto differente da quella che ci viene proposta da questo mondo. Il verso continua e dice: del resto, fratelli. E sembra quasi scontato questa sottolineatura, questo dire a chi è destinato, a chi è destinata questa lettera, ribadiamolo in questo concetto. Ma non è così scontato, perché qui e in vari punti della lettera ai Filippesi, come anche in altre lettere del Nuovo Testamento, sempre di Paolo, Paolo fa riferimento ad un tipo di gioia rivolgendosi sempre a destinatari al plurale. Anche qui abbiamo fratelli. Chi sono fratelli? Sono fratelli che condividono lo stesso sangue. Noi ci chiamiamo fratelli e sorelle perché condividiamo lo stesso sangue di Gesù, giusto? Per questo siamo fratelli e sorelle in Cristo. Paolo ci sta dicendo un concetto importante. Questo tipo di gioia che Paolo vuole insegnarci, noi non abbiamo la possibilità di comprenderlo da soli. Abbiamo necessità di imparare una dimensione comunitaria. Noi viviamo questo tipo di gioia nell'insieme, nell'essere chiesa, nello stare insieme, nel fare famiglia. Per quanti c'erano al campeggio, la chiesa è sposa, corpo e famiglia. Nell'essere fratelli in questo modo, noi abbiamo la possibilità di comprendere 100%, il 100% della gioia. Chiesa, c'è una dimensione della gioia che noi non possiamo conoscere da soli a casa, che noi non possiamo vivere da soli a casa, che noi dobbiamo viverlo come corpo. Allora mi sono chiesta: magari allora facciamo così, io sono gioiosa e lo condivido con Noemi. Allora Noemi, Noemi non è che mi copi la predica, che stai prendendo la... Non c'è niente da copiare, anzi volevo i tuoi appunti, vabbè, questi sono gli scherzi nostri, volevamo prestarci delle cose, anche le prediche, perché noi abbiamo gioia insieme. Allora Noemi vince e io gioisco con lei, questo è un tipo di gioia. Noemi vince e lo condivide su Instagram o su Facebook e io metto un mi piace o metto un cuoricino. Avete visto che ora i cuoricini su Instagram esplodono, che bello. Ma questo non è solo vivere una dimensione comunitaria della gioia, cioè tu sei felice, io gioisco con te, è bello ed è sano ed è glorioso, ma non è solamente questo, è gioire insieme. Cioè tu vinci, io vinco con te, ok, ma noi vinciamo anche insieme. E voglio raccontarvi al volo quello che è successo nel campeggio. Vi ricordate l'anno da cui sono venuta? E poi è arrivato il campeggio. Prima del campeggio sono stata in una chiesa straordinaria e lì ho visto mi ha fatto molto bene vedere questa chiesa, riconoscere la genuinità di pastori straordinari, estremamente maturi, ma estremamente anche pieni di passione ancora per quello. E il Signore ha cominciato a bussare al mio cuore, ha detto: stai capendo che qua quest'anno è della gioia e ce lo dobbiamo riprendere? E poi siamo arrivati al campeggio e le mie aspettative, i miei punti di preghiera sono stati specifici e li ho visti realizzati al 70%. Però ad un certo punto io ho dovuto riconoscere che una delle cose che lo scorso anno mi ha tolta, forse anche più di un anno, era proprio la dimensione chiesa. Sara, ma ti abbiamo visto ogni domenica qui, non tutte le domeniche perché ho viaggiato tanto ed ero in tante chiese lo scorso anno. Ma sì, mi avete visto qui, magari ci siamo abbracciati, abbiamo parlato, abbiamo pregato. Ma la dimensione chiesa è differente. La dimensione chiesa è combattere insieme, gioire insieme, pregare insieme, prenderci un caffè rilassato senza orologio. E quello che è successo nel campeggio è stato questo. Ho ascoltato la testimonianza di Raffaele. Ascoltatela, andate da lui e fatevela dire. E mi ha riempito, ho ascoltato la testimonianza di sua moglie e mi ha riempito. E ad un certo punto abbiamo pregato per il riempimento dello Spirito Santo. E c'erano davanti all'appello almeno 20 ragazzi di sotto 18 anni. E ho detto: Signore, vediamo cosa fai ora. Abbiamo cominciato a pregare. E ogni ragazzo ha ricevuto il riempimento dello Spirito Santo, cominciando a parlare nuove lingue. E poi già ero spalmata al primo turno. Poi sono arrivati i campeggi, spaccata all'ennesima potenza. Secondo turno, e sono arrivate le altre testimonianze, gli altri miracoli, le parole che il Signore ha detto. Ed ero per terra. E il Signore mi ha di nuovo ribadito la Chiesa. La dimensione comunitaria, la dimensione chiesa, quante cose riescono a dividerci, quello che vivi, le stagioni, che ci incrociamo e non ci guardiamo in faccia, che lo spirito di rigetto che con cui Satana sta sempre qui a porcelo davanti, oh, non ti ha salutato, non ti vuole bene, non vale più niente perché Noemi non ti guarda più come prima, oh, mamma mia, cioè non ignoriamolo, lo spirito di rigetto è sempre lì a dividerci. Visto persone al secondo turno ritornare a Cristo, wow, io sono tornata a quella passione per il Signore che mi mancava da tanto tempo, ed è nell'insieme del resto, fratelli, ricordiamocelo, Chiesa, possiamo vivere delle vite isolate, straordinarie, ma io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me per vivere una completa gioia, ti piace? Non abbiamo ancora parlato della gioia, avete visto? Siamo a 7 minuti che mancano. Rallegratevi, in un'altra traduzione dice abbiate gioia, cioè viviate nella gioia, è un imperativo, non è se volete, se tutto va bene, è un imperativo, siate gioiosi, vivete nella gioia, riempitevi di gioia, vivete con gioia, abbiate gioia. E uno dei versi per comprendere meglio questo concetto, noi lo prendiamo dal Salmo 87, ve lo faccio, 37 verso 4, ed è, e noi lo prendiamo spesso da questo verso, trova la tua gioia del Signore, è già lì? Ditemi la fine, ed egli, questo è un, ed egli appianerà o appagherà questo, i desideri del tuo cuore. Chiesa, non c'è un verso che noi citiamo in maniera più sbagliata di questo. Siete con me? Lo capiamo insieme? Perché oggi la mia preghiera è che Dio abbatta ogni ragionamento che si è alzato al di sopra della sua presenza nella nostra mente per vivere una gioia vera. Questo è un verso che noi citiamo in una maniera sbagliata quando lo scriviamo sui regali di compleanno, è vero? Oh, io lo dico sempre, ma ci piace la seconda parte, ed egli appagherà, oh, tutti i miei bisogni saranno soddisfatti. Infatti nel nostro corpo la gioia viene prodotta quando i nostri bisogni sono soddisfatti. E questo verso è un verso che ci può portare a fraintendere totalmente, trova la tua gioia nel Signore. Io l'ho interpretato per tanto tempo così: io vengo, gli do a Dio una lode gioiosa, salto un po' di più, un alleluia più forte, grido un po' di più, un sorriso più splendente. Ecco, ho trovato la mia gioia nel Signore, finalmente Dio, che mi vede gioiosa nell'adorazione, me appagherà tutti i desideri del mio cuore. Ecco qui che il nostro Dio si trasforma automaticamente da Dio sul trono a il genio della lampada. Vi ricordate com'era? Noi sì, perché lo vediamo in continuazione questo cartone animato e tutto il musical e tutti i film della Disney. Lui ha così grattato qui, grazie Simona per... E il genio arriva il genio e dice: oh, cosa vuoi che io faccia per te? Tre desideri, non di più. Quando leggiamo Salmo 37 verso 4, lo puoi lasciare Sara per piacere? Ed egli appagherà tutti i desideri del nostro cuore. Ricordiamoci, attenti alla lampada, perché non è questo il significato di quel verso. Cioè, non è che noi prendiamo gioia nel Signore, cioè siamo più felici nella lotta, e Lui ci dà tutto quello che io desidero. Barabom, la lista. Una moglie fantastica, un marito straordinario, dei figli che somiglino a me solo nella parte dei pregi e non dei difetti, una casa che non devo ristrutturare ogni 5 anni, una macchina che consuma e che va ad aria, un lavoro in cui tutti mi riconoscono per le mie fantastiche qualità, i miei colleghi che mi amano e mi stimano, una chiesa perfetta in cui il pastore, quando arrivo, mi abbraccia e mi dice: fratello, sorella, mi sei mancato, vieni, entra nella gloria del tuo pastore. Una chiesa che non si deve pulire perché non lo sporchiamo. Io, questi sono i miei desideri, il desiderio del mio cuore. Possibilmente tutto questo ai Caraibi, perché non guasterebbe, diciamo, vivere con i sandali tutto l'anno, e preferibilmente senza rughe e senza chirurgia plastica. Quindi questi sono i desideri del mio cuore. Gesù, grazie che li vuoi appagare. Però se non li appaghi, mica avrai la mia lode. E il mio servizio te lo scordi. Tu fai qualcosa per me e io faccio qualcosa per te. Questa è la rovina, la distorsione del Salmo 37,4. Per piacere, non usiamolo più per i regali di compleanno, ok? Regaliamolo alle nascite, ai funerali e neanche ai matrimoni, perché è pericoloso. Quindi non usiamolo più questo verso, ok? Usiamolo solo quando abbiamo capito meglio cosa vuol dire. La gioia di cui Paolo ci parla in Filippesi, infatti, non è una gioia generica. È una gioia nel Signore, è rallegratevi nel Signore. E qui le cose si fanno più complicate. Perché? Perché allora dobbiamo capire qualcosa in più. Non è sorridere tutto il giorno, tutti i giorni. Non è good vibes, questo è un altro hashtag. Solo good vibes, questa è un'altra modalità che vogliamo. Tu non stai bene? Non ti voglio, perché oggi voglio solo good vibes. Cioè, significano solo buone vibrazioni intorno a me. Se sei negativo, se sei triste, non ti avvicinare, perché mi influenzi. La vedi la mia aura di felicità, di gioia? Non voglio che me la tocchi. Quindi solo good vibes, mi raccomando. Ma questa non è la gioia. Queste sono le vibes. Queste sono le... Niente. Ok? Rallegrarsi nel Signore è un'altra roba. Ora, ovviamente non sto dicendo che tutte quelle cose belle che il Signore ci regala non ci possono dare gioia. Ti posso chiedere al volo di pensare alla tua lista della gioia? Hai una lista di cose che ti danno gioia? No, prima che te le distruggo, falla. Poi le distruggiamo insieme, ok? So che ora hai paura un attimo a pensarci, però ti dico la mia lista di gioia, ok? La mia lista di gioia comincia con mio marito che mi dà un caffè e un bacio ogni mattina. Questa è la cosa che mi fa svegliare con gioia. Grazie, ok? che lo fai sempre, in ogni stagione, pieno di gioia e senza. Dopo i baci di mio marito arrivano i baci dei miei figli, preferibilmente mentre stanno dormendo perché me li godo di più. I baci dei miei figli mi danno una gioia incredibile. O io che posso baciare i miei figli è qualcosa che mi dà un'incredibile gioia. La mia casa, abbiamo cambiato casa da 2 anni, è una casa che mi dà gioia, ha delle good vibes. Giri, ci sono le piante che cura ovviamente mio marito, che quindi stanno bene. Lui cura le piante, io pulisco, questo è l'equilibrio, ok? Abbiamo degli spazi belli. Il mio servizio per il Signore, abbiamo creato un'associazione, forse qualcuno di voi lo sa, sto aiutando diverse chiese in tutta Italia, mi dà gioia. I miei capelli mi danno gioia. Le mie unghie, quando non si spezza lo smalto, mi dà gioia. Il mare mi dà gioia. La natura mi dà gioia. Il conto non in rosso mi dà gioia. Questa è la mia lista. Lo ripeto, poi vabbè c'è la chirurgia plastica, tutte quelle cose ce le siamo già dette, noi Caraibi, tutte le cose. Vi rendete conto che tutte queste cose, partendo da quelle che sono le più belle, come un matrimonio, come i figli, come un lavoro, come una proprietà, che sono tutte cose che devono stare nella nostra vita perché sono un regalo, tutte queste cose, una ad uno, possono diventare i peggiori motivi per cui noi stiamo male. Alla salute, l'ho dimenticata perché è troppo debole come cosa, quindi, però la salute, quanto è importante che se stiamo bene abbiamo gioia, se stiamo male non abbiamo gioia. Tutta questa lista si può trasformare velocemente in una lista di grandi problemi. Quali sono le problematiche più importanti che stiamo affrontando come Chiesa? Matrimoni che si distruggono, problemi con i figli, problemi finanziari, problemi sul lavoro. Avete visto? È la stessa lista. Ma al contrario, ecco perché la nostra gioia non può dipendere da queste cose. Come dire, per fare un paragone pratico, queste possono essere delle lenzuola su di noi, delle copertine, ma noi abbiamo bisogno di dormire su un materasso stabile. E la gioia nel Signore è il materasso su cui dormire. Questa è la gioia su cui stare. Rallegratevi nel Signore. Cosa vuol dire? Che il Signore non solo è la nostra base, ma il Signore è la nostra fonte. Vi faccio leggere un altro salmo. Salmo 87, verso 7. Tutte le fonti della mia gioia sono in te. La parola fonti qui fa riferimento proprio alla fonte del pozzo, dell'acqua, della sorgente. Allora cominciamo a spostare l'occhio. Salute, famiglia, figli, soldi, lavoro. Se sono queste le nostre fonti, la nostra ricerca, siamo messi male. Tutte le fonti della mia gioia sono in te, dice il salmista. Cioè quando il pozzo da cui prendo l'acqua per dissetarmi è in Dio, è in Cristo, allora la cosa è differente. La fonte principale della nostra gioia, la fonte unica, la sorgente da cui attingiamo per dissetare la nostra necessità di gioia, il Salmo dice: sono in te, Signore, sono in te, Signore, sono in te, Signore. E cosa vuol dire che sono in te, Signore? Che noi ci svegliamo e la mattina ci ricordiamo che eravamo morti nel nostro peccato, eravamo maledetti nelle nostre maledizioni, eravamo schiavi, eravamo colpiti e morti sempre, ma il Signore ci ha perdonati, liberati, acquistati, guariti, resi figli, amici, collaboratori, intimi. Questa è la nostra più importante consapevolezza. Da qui deve esserci gioia. Questa è la gioia nel Signore. Sì, Sara, questa è la gioia che avevo quando mi sono convertita. No, perché ogni giorno il Signore fa un lavoro su di noi di rinnovamento della nostra mente per essere come Lui. Allora tutte quelle cose che questo mondo vuole spingere nella nostra vita come ricerca, noi le possiamo buttare fuori, noi possiamo rinunciare, possiamo fare un lavoro opposto con lo Spirito Santo, perché tutte le fonti della mia gioia sono in te, devono essere in te. Che cos'è quindi questa gioia di cui la Bibbia ci parla in 200 versi? 200 versi, la gioia, mamma mia! E non è solo una fissazione di Paolo nel Nuovo Testamento, perché anche gli altri autori neotestamentari hanno scritto della gioia. Beh, c'è differenza tra allegria, c'è differenza con l'euforia, c'è differenza con le emozioni positive, con le good vibes. La gioia è uno status, e quando la nostra gioia è nel Signore, lo status è identitario, ha a che fare con chi sei, ha a che fare con la piattaforma con cui, stagione buona o no, ogni giorno noi possiamo svegliarci. E bacio di mio marito, non bacio di mio marito, bacio dei miei figli, non bacio dei miei figli, una bella casa o non una casa, con i soldi o senza soldi, con la salute o senza la salute, con le rughe o senza le rughe. Questa è la mia piattaforma di gioia e nessuno me la può rubare. Non può finire con la giornata. Se anche non me lo ricordo, qualcosa tenta di coprirlo. Questa è la mia consapevolezza, perché Cristo Gesù entra in me. E sai una cosa? Dio è un Dio di gioia. Nel suo carattere c'è la gioia. Ve lo voglio dimostrare con qualche verso. Salmo 147 verso 10. Egli non si compiace nella forza del cavallo. Chiesa, ricordiamocelo questo, non è in quello che noi facciamo, nella nostra forza. Dio non si compiace in questo. Leggi ancora: né prende alcun piacere nelle gambe dell'uomo. L'Eterno prende piacere in chi? In quelli che lo temono. Lui è un Dio che ha piacere, che ha gioia in quelli che sperano nella sua benignità. 1 Cronache 16:27, splendore e maestà sono davanti a Lui. Diciamolo insieme: forza e gioia sono nella sua casa. Perché proprio la gioia? Ci poteva essere l'adorazione, la preghiera, la santità, anche, ma anche questa tortura della gioia, perché nella casa di Dio c'è gioia. Nel carattere di Dio c'è gioia, nella casa di Dio c'è gioia. Ancora, Romani 14, poiché il regno di Dio non consiste in vivande né in bevande, ma giustizia, pace e, diciamolo insieme, una tortura. Ancora, Romani 15:13, or il Dio della speranza, quindi questo è quello che è Dio, questo che è quello che è nella sua casa, questo è quello che si addice alla sua casa, non solo, Dio vuole che, or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia. Signore, dammela, fammela capire, dammela, perché non ti prego, Signore, dammela, fammela capire, fammela riconoscere. Noi siamo stati creati per essere gioiosi, noi siamo stati creati per la gioia. Non dico una stupidaggine, chimicamente ci sono parti del nostro sistema nervoso, in particolar modo l'amigdala, l'ho già citata in qualche studio, l'amigdala, una parte posizionata qui sotto, ha semplicemente la funzione di produrre in noi delle cose straordinarie, dopamina e serotonina, e queste sono cose che in noi ci fanno vivere gioia. Tu sei creato per la gioia. Ripeto un po': Dio è un Dio di gioia, la gioia è nella sua casa, la gioia è nel suo carattere, e Lui ama che i suoi figli riflettano il suo carattere, e quindi ci ha creati per la gioia. La gioia ci fa bene. La gioia è la miglior medicina contro la depressione e l'ansia. Le ricerche dicono che coloro che vivono in una prospettiva più positiva della vita vanno incontro meno a alcuni tipi di malattia. Questa è la medicina che ce lo dice. La gioia rende migliori le nostre performance, la gioia ci protegge dallo stress, la gioia ci fa essere più resilienti, siamo più flessibili con la gioia. Quante cose buone ha previsto Dio nella gioia con noi. Con la gioia in noi. E la gioia, parolina magica, non ha a che fare con l'egocentrismo secolare. Ora prenderò un secondo per spiegare questo concetto difficilissimo, ma vorrei spendere un'ora per questo. Tutto Instagram ci... no, ti voglio bene, rimarrai un po' con me, ok? Tutto questo mondo, tutto questo mondo, da quando ci svegliamo, quando andiamo a dormire, ci dà un input: devi essere gioioso, devi avere una vita di successo, devi vivere nell'euforia, se anche non la vivi basta che la mostri. E questo non ha a che fare con le regole morali, con quello che Dio vuole da te, ha a che fare semplicemente con il tuo prezioso egocentrismo. Basta che stai bene tu. Le cose che ti fanno stare bene, quelle devi fare. Lavare i pavimenti non ti fa stare bene, non li lavare. Stare con tuo marito nello stesso matrimonio per 30 anni non ti fa stare bene, lo puoi lasciare, non c'è problema. Vai in un altro matrimonio che ti farà sentire sicuramente bene. Il sacrificio, ma no, non ti fa stare bene il sacrificio. L'egocentrismo è sempre perché siamo stati creati a immagine di Dio, che nel suo carattere, seguitemi un attimo, nel suo carattere c'è gioia, l'ha immessa in noi come ricerca della gioia. Come esseri umani noi ricerchiamo la gioia, siamo attratti dalla gioia, decidiamo per la gioia, ma questa gioia quando soddisfa i nostri bisogni diventa egocentrismo e questo sfascia tutto, questo rovina tutto ed è questo che sta rovinando il nostro mondo. Perché io ricerco la mia gioia, tu ricerchi la tua gioia e le nostre gioie e le nostre ricerche non sono allineate. Io sto bene quando divido il mondo in bianchi e neri e allora quelli neri li uccido perché non mi fanno stare bene. Quella è la mia gioia. La mia gioia è ammazzare tutti coloro che hanno un handicap. Questa era la gioia di qualcuno che ha influenzato i nostri secoli. Ce ne ricordiamo queste cose. Attualmente siamo nella stessa categoria. Siamo nella ricerca della gioia. L'egocentrismo secolare va contro un edonismo cristiano. Edonismo è una parola che significa la ricerca della gioia. E quando noi siamo stati creati per cercare gioia, ma in questo non ci chiediamo: cosa fa gioire a me? Se io sono stato messo a morte con Cristo, di chi ricercherò la gioia in me? Non ricercherò la mia gioia, ricercherò la gioia di Cristo. È sano che noi credenti ricerchiamo la gioia, ma cerchiamo quella gioia che rallegra il nostro Dio. E Paolo solamente nel libro di Filippesi ci ricorda alcuni motivi per cui dobbiamo avere gioia e dobbiamo cercare gioia. Ve li elenco. Paolo dice: io ho gioia perché voi avete partecipato nel Vangelo, io ho gioia perché Cristo è stato predicato, io ho gioia perché voi siete uniti nell'amore, io ho gioia per la vostra fede, io ho gioia perché mi avete sostenuto nella fede, io ho gioia per il ministero di Epafrodito, io ho gioia per voi filippesi, ringrazio Dio, vi ricordate, io ho gioia perché i nostri nomi sono scritti nei cieli, io ho gioia perché mi avete dato un supporto finanziario. Che cosa vuol dire Paolo? Qual è questa gioia? Quindi del resto, fratelli, rallegratevi nel Signore. Cosa significa? Noi abbiamo gioia, una gioia che glorifica Cristo, che fa gioire Cristo, quando rivolgiamo questa ricerca della gioia a Dio, al suo regno, alle sue cose, a tutto quello che ha a che fare con Lui, a tutto quello che ha a che fare con la sua volontà. È solo in quel momento che la nostra gioia viene appagata. Ora riprendiamoci Salmo 37, com'è? Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Sono arrivato al campeggio con tante lacune, vedere Sara, l'altra Sara, Anna, ripiene di Spirito Santo, parlare in nuove lingue, mi ha riempito di gioia, non perché il miracolo fosse successo a me, ma queste sono le cose di Dio. Quando vedi che le cose di Dio vanno, quando Dio mette in te la sua ricerca della gioia, allora Lui mette in te la sua gioia. E dopo il campeggio, Elias era ancora a Roma, mio suocero non sta ancora bene, le cose non vanno bene e tutto il resto è rimasto così. Qualcosa è cambiata, qualcosa no. Ma il velo della tristezza, dell'egocentrismo, della mia ricerca di gioia è stato tolto e non lo voglio più. Perché rallegratevi nel Signore è abbiate gioia nelle cose di Dio. E come facciamo ad avere gioia nelle cose di Dio se non conosciamo le cose che fanno piacere a Dio? Quindi il mio invito è: conosciamo Dio, conosci quello che fa piacere a Lui, conosci la sua volontà, fai in modo che Lui sia glorificato in te, nelle tue opere, nelle tue scelte, in come ti svegli la mattina, in come gestisci la tua famiglia, in come gestisci le tue finanze, in come vieni in chiesa e come scegli di servire la tua chiesa, quello che vedi sui social, come stai davanti allo schermo, glorifica Cristo con tutte queste cose. Focalizza la tua ricerca della gioia. Focalizza la tua ricerca della gioia. Focalizzati. Spendiamo troppo tempo a cercare di soddisfare questa gioia, una gioia che finisce. Vi assicuro che quando ci dedichiamo a quelle cose che non finiscono, noi viviamo in una gioia che non può essere paragonata a nessuna delle gioie più grandi che noi potremo mai avere. Metto firma su questo concetto. Quindi focalizza la tua gioia nel Signore. Il verso continua e finisce dicendo: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e lo abbiamo capito, e ciò è di garanzia di sicurezza per voi. Cosa vuol dire? Tutto questo concetto della gioia, se noi lo togliamo da nel Signore e quindi ci sottomettiamo all'egocentrismo secolare, non sottomettendoci invece all'edonismo cristiano, noi abbiamo ogni possibilità di perderci nella nostra vita cristiana. Come credenti, noi possiamo abortire lo scopo di Dio nella nostra vita se semplicemente viviamo ogni giorno per soddisfare i nostri bisogni. Per questo Paolo dice: fammelo dire un'altra volta. E se ve l'ho già detto, ve lo dico di nuovo, perché questo sia una garanzia di sicurezza per voi. Cioè, questo concetto, rallegrarci nel Signore, Paolo ha detto: fammelo dire di nuovo. Non si sa mai, si sono persi. Non si sa mai, durante l'estate qualcuno ha avuto delle voglie improvvise di soddisfare il proprio egocentrismo e si è dimenticato di rallegrarsi nel Signore. Non si sa mai, qualcuno è venuto a toglierti la gioia dell'essere in chiesa, dell'essere con la chiesa, dell'essere in Cristo. Fammelo dire di nuovo a Paolo, a questi filippesi. Io ringrazio Dio che ci ha torturati, Paolo, con questa gioia, perché vuol dire che ce lo dobbiamo ricordare. E questa è una garanzia per noi, una garanzia e una sicurezza che è il piano con cui Dio mi ha creata, che è glorificare la sua volontà, non venga abortito dal mio egocentrismo. Che lo scopo che Dio ti ha affidato come credente nella tua città, come padre, come madre di famiglia, come lavoratore, come operaio, come missionario, come servo, come ministro, non venga abortito dal tuo, dal mio egocentrismo. Chiesa, abbiamo un grande pericolo, e Paolo ce lo ribadisce, di trascurare la gioia nel Signore, di confondere la gioia nel Signore. Abbiamo bisogno di rivederla, abbiamo bisogno di essere focalizzati, di rifocalizzarci sulle cose vere. Volete farlo con me? Così possiamo riscrivere la nostra lista delle cose che ci danno gioia. E io l'ho riscritta. E ho riscritto le stesse cose di prima. Sapete, non ho tolto mio marito, i miei figli, ma ho messo un primo posto. Cercate prima il regno di Dio e tutte quelle cose vi saranno date in più. Quelle sono in più. E se noi fossimo in Niger, da soli, in un villaggio, con dei fucili pronti intorno, quando parlo della gioia, quando devo guardare la pagina di Instagram di Porte Aperte, devo guardare le storie di Porte Aperte. Questa settimana c'erano delle storie molto importanti, vi invito a seguire il blog o a essere aggiornati su Porte Aperte. Se noi abbiamo creduto in una chiesa che è gioiosa, punto, allora dobbiamo cancellare Porte Aperte. Allora non ha senso la chiesa perseguitata. Ma quella è chiesa, come noi siamo chiesa. E non è possibile che a noi Dio ci chieda di essere felici nelle nostre splendide vite e lì vengono uccisi i bambini perché i genitori non vogliono rinnegare Gesù. non può stare nello stesso concetto, è vero, scricchiola troppo. Allora dobbiamo rivedere il nostro motivo di gioia. E se anche ogni cosa, se anche ogni cosa ci fosse tolta, e se anche ogni piano non andasse come noi desideriamo, e se anche ognuno dei nostri bisogni non fosse soddisfatto, noi possiamo rimanere nella gioia del Signore. Neemia dice: la gioia del Signore è la nostra forza. Ed è questa gioia che ci dà l'opportunità di vivere nelle stagioni in cui c'è solo quella gioia che deve essere tutto. Amen. Rifocalizziamoci, Chiesa. Vogliamo alzarci in piedi e pregare. Non me la sento di fare un appello. Voglio però che cambiamo testa. Però ti voglio chiedere di fare un passo di riconoscimento. Quanti riconoscono di dover abbattere dei muri di ragionamento sbagliato sulla gioia? Posso vedere le mani? Io ho tutte 15 le mani alzate. Io voglio chiedere perdono al Signore per aver rincorso quella gioia troppe volte. Abbiamo bisogno di riprenderci la gioia nel Signore. Amen. Rimaniamo con le mani alzate, vogliamo dirlo al Signore. Signore, vogliamo chiederti perdono per ogni concetto sbagliato che abbiamo lasciato entrare, a cui ci siamo sottomessi, a cui ci siamo sacrificati in maniera sbagliata. Noi vogliamo davvero riprendere, e forse per la prima volta o forse per una nuova volta, un concetto di gioia che è in te. Signore, io ti ringrazio perché tu mi hai salvata, ti ringrazio perché tu mi hai liberato la mia vita da ogni schiavitù. Grazie perché hai spezzato ogni maledizione. Grazie, Signore, perché mi chiami figlia. Grazie perché io appartengo a te. Grazie perché sono adottata dal tuo spirito. Grazie, Signore, perché sono figlia, perché sono amica, perché sono collaboratrice. Grazie, Signore, perché tu mi hai dato una chiesa, perché mi hai dato una famiglia, perché sono sorella. Grazie, Signore, per ogni cosa che viene da te. Grazie per il tuo regno. Grazie per l'eternità. Grazie per il tuo regno che avanza, grazie per il tuo Vangelo che viene predicato, grazie per ogni persona che si salva, grazie perché ieri Giosuè si è battezzato, grazie per ogni battesimo che abbiamo avuto in agosto, Signore, grazie per ogni cosa. Questi, Signore, sono i motivi per cui io ti dico grazie. Grazie perché mi concedi una gioia che non può essere smossa. Grazie che concedi alla mia vita gioia. Grazie, Signore, perché tu sei entrato in me. Grazie Gesù per tutte queste cose. Io ti prego che in questa nuova stagione di Chiesa possiamo riprendere un concetto sano, sobrio, equilibrato, che ti glorifica di gioia in te.